dovesse capitare tutto quello che non ho, dovesse capitare in tutti quei giorni che avrò, dovesse poi cambiare il tempo in qualcosa che non c'è, a me basterebbe vivere con te. Dovessero cambiare tutti i sogni che tu hai, dovessero cambiare tutte le parole fra di noi, dovessero cambiare le paure che tu hai, a me basta pensarti se vuoi. Ho bisogno di vivere, ho bisogno di piangere, ho bisogno di questa vita che non va, a me basta arrivare più là. Se può succedere che nessuno ci sarà, se può succedere che qualcosa cambierà, dovesse poi cambiare il senso di questo tempo, ma il resto che cambi semmai, dovessero restare tutti quanti lì, dovessero occupare tutta questa stanza. Viene da pensare quando tu quel giorno ci sarai, ho paura a cambiarti semmai. Ho bisogno di vivere, ho bisogno di piangere, ho bisogno di questa vita che non va, a me basta arrivare più là. Ho bisogno di vivere, ho bisogno di piangere, ho bisogno di questa vita che non va, a me basta arrivare.